Nell'intervista di oggi di Festivals Backpack, per chiudere la nostra puntata, abbiamo pensato di raggiungere al telefono una band che si esibirà tra pochissimi giorni al Covo Club. Io lascerò che siano loro a dire il loro nome, perché io, a parte Bonjour e Ça va, direi che ho un francese che fa veramente pena. Quindi intanto, bienvenue, chiedo se avete voglia di presentarvi e dirci chi siete. Allora, c'è da fare una premessa, però, prima di tutto. Noi stessi non sappiamo assolutamente niente di francese, sappiamo giusto dire il nostro nome, che è Animo Formidable. Suonava molto bene, molto meglio che in italiano, molto meglio che in inglese, quindi abbiamo scelto all'epoca di farlo in francese. Però noi stessi, non ti preoccupare, che siamo molto molto carenti in questa lingua. Quindi possiamo fare l'intervista in italiano, me lo confermate? Assolutamente sì. Molto bene, grazie mille. È vero che comunque questo nome in francese ha molto molto fascino. E volevo un po' chiedere, proprio per un po' rompere il ghiaccio, come mai avete scelto questo nome? Allora, diciamo che è legato anche a un concetto che avevamo in testa da prima. Animo Formidable è l'essenza, insomma, di tutte le persone, di tutti gli esseri che hanno un'anima, no? Che hanno una capacità introspettiva, che hanno una capacità di tirare fuori delle facoltà che molto spesso noi assopiamo durante la nostra quotidianità. Quindi quell'istinto animale, ma nell'accezione positiva di esso. Quindi quel riconnettersi verso anche una spiritualità, verso appunto una ricerca dell'anima. E quindi abbiamo detto, siamo tutti degli animali potenzialmente formidabili. Solo che spesso ce lo dimentichiamo, appunto veniamo assoggettati da tante altre cose parecchio superflue, e quindi c'era questo concetto dietro, ancora prima, ripeto, di mettere su proprio la band, e poi l'abbiamo in qualche modo ripescato e ne abbiamo fatto un nome. E invece, per quanto riguarda, insomma, salire sul palco come animali formidabili, quali sono i vostri animali guida? Beh, direi senza dubbio i gatti. Siamo gattari da una vita, e poi il gatto è un animale misterioso, mistico, non si capisce mai cosa stia facendo, arriva da altre dimensioni. E in realtà, vabbè, su questo filone poi abbiamo giocato sulla maschera, che si ricollega un po' ad essere, di ritrovare la propria natura, perché spesso la maschera in realtà ti aiuta, diciamo, a togliere un po' quelle convenzioni sociali, a ritrovare un po' la tua vera natura istintiva. Sul palco poi è una cosa che ci aiuta molto. Adesso passo a un'altra domanda che riguarda il vostro secondo EP, che è in uscita, è uscito anzi il 24 gennaio, quindi pochissimi giorni fa, e che arriva non troppo distante in realtà dal vostro primo EP, che si chiamava We Are All Animals, il primo in inglese, il primo titolo era in inglese. In questo caso invece parliamo di un certo Tony. Chi è Tony? Allora, Tony è il protagonista di un brano che fa parte dell'EP. Nello specifico, il protagonista, nella stesura del testo, è qualcuno che in qualche modo a un certo punto ha una sorta di epifania, non riconosce più se stesso, o comunque non viene più riconosciuto anche dal suo migliore amico. Si rende conto, si rendono conto reciprocamente che la loro relazione sta subendo delle alterazioni, non sono più degli amici, stanno incontrando un sentimento differente fra di loro. Questo è, diciamo che è un po' scherzoso il testo, è un po' giocato sugli equivoci, però il senso del tutto è che è qualcuno che prende coscienza di se stesso in maniera molto più profonda, si rende conto che quello che pensava di essere fino al giorno prima non lo è più, era una sovrastruttura, in realtà la propria essenza è un'altra. E quindi diciamo che poi Tony, abbiamo sviluppato il concetto che Tony può essere chiunque di noi, ovvero chiunque possa in qualche modo a un certo punto prendere, anche lì un po' si lega anche al concetto di Animo Formidable. Diciamo che abbiamo sempre un filo conduttore nella nostra stesura di testi e di concetti. Quindi Tony può essere, si può identificare in Tony un po' chiunque, quindi chi appunto a un certo punto prende coscienza di se stesso, si guarda, si accetta esattamente per quello che è, senza dover andare a condiscendere quelle che sono, diciamo, sono dei target legati al sociale, a quello che dovrebbe essere. No, semplicemente uno dice: io sono questo, lo accetto, lo abbraccio, lo accolgo, lo amo, ci faccio pace e lo interiorizzo a pieno. Quindi diciamo che Tony può essere un po' chiunque, tant'è poi che durante i nostri concerti a un certo punto, quando facciamo quella canzone, molto spesso ci sono persone che si chiamino o non si chiamino poi Tony, proprio anagraficamente, però che si identificano in questa cosa, salgono sul palco, interagiscono. In qualche modo per qualche minuto si sentono più liberi e questa cosa è bella, vuol dire che insomma, quello che avevamo in testa di esprimere viene espresso e viene poi. Quindi mi viene, citando sempre un po' il francese, je suis Tony, insomma, un po', no? Quindi il messaggio è molto bello, secondo me, di questa canzone. Io vi chiederei se vi va di fare una piccola pausa e scegliere una canzone da far ascoltare ai nostri ascoltatori o le nostre ascoltatrici, sia dall'ultimo album o anche dal primo, come volete voi. Direi a questo punto di far ascoltare Tony. Perfetto, lo ascoltiamo e torniamo da voi. Beh, in effetti questa canzone è sicuramente una canzone molto importante, tant'è che appunto ha dato il titolo all'album. Ma riguardo a quest'album io avevo un'altra domanda, perché so che la lavorazione è stata una lavorazione un po' particolare, in presa diretta, su nastro analogico. Mi raccontate un po' com'è andata e come mai c'è stata proprio la scelta di lavorare in questo modo? Allora, già il nostro primo disco in realtà avevamo scelto il filone dell'analogico con Marco Fasolo, che lui è, diciamo, un guru dell'analogico in Italia. E rispetto al primo disco, questo EP è ancora, diciamo, più analogico, perché nel senso che l'abbiamo registrato tutti nella stessa stanza e quindi abbiamo voluto giocare ancora di più sui rientri per cogliere ancora di più una dimensione live. Non ci sono sovraincisioni, non ci sono correzioni, quindi tutto quello che si sente è quello che è stato suonato, perché pensiamo che la nostra forza, la nostra anima sia poi quella del suonare live, quindi si riprende poi appieno il concerto di Tony, accettiamo che noi siamo questo, siamo analogici e casinari. Dovete accettare la vostra natura, in sostanza. Esatto. No? È giusto così. L'abbiamo accettata. L'avete accettata. No, c'è da dire anche che oltre appunto, sì, la nostra natura è Marco Fasolo, dalla prima volta che ci ha sentiti, che ha sentito le nostre bozze, ha capito esattamente come dovevano essere registrate, quindi lui già lavora molto, quello è il suo modo di lavorare, sempre con l'analogico, è molto appassionato di quel tipo di macchine e ha capito perfettamente che per noi era proprio la restituzione migliore di quella cosa lì, cioè ha identificato e ha messo in bella copia quello che siamo con quei mezzi lì ed era, non poteva esserci sodalizio migliore. Perfetto, è la vostra anima gemella a livello musicale, insomma. Assolutamente sì. Perfetto, prima parlavamo di live, voi nel giro di, insomma, una carriera che non è iniziata tanto tempo fa, avete collezionato 150 live, che sono tantissimi. Volevo proprio chiedervi quanto è importante per voi la dimensione dei live e come percepite il rapporto con il pubblico. Allora, la dimensione live è fondamentale, nel senso che appunto noi componiamo in quel modo, registriamo in quel modo e quindi tutta la nostra musica è proprio una roba suonata live, che è bella da sentire su disco perché appunto viene catturata esattamente così come la suoniamo dal vivo, ma è ancora più bello soprattutto per noi poi portarla dal vivo e poter sprigionare tutto quello che abbiamo voglia e necessità di sprigionare sul palco davanti al pubblico. Quindi è fondamentale, siamo molto grati di essere stati in grado, che ci sia stato permesso di lavorare così tanto sul palco. Il rapporto col pubblico è anche quello altresì fondamentale, anche perché diciamo spesso che il concerto si fa sul palco ma anche di fronte al palco, quindi è sempre uno scambio un po' reciproco. Quindi noi quando, soprattutto i concerti dove c'è molta interazione, dove c'è molto calore, a nostra volta noi cambiamo e facciamo una performance ancora migliore, cioè diventa a un certo punto una storia che si racconta da ambo i lati ed è molto bello. La vostra, dicevamo appunto, la vostra carriera come Animo Formidable con questo progetto è iniziato pochi anni fa. Prima di questo avete fatto altri progetti musicali singolarmente o sempre voi due, e com'è nata proprio quest'idea? Ma diciamo che prima sì, avevamo dei progetti musicali artistici e però diciamo che non ci siamo mai incontrati, nel senso che noi siamo sposati e siamo una coppia da tanti anni, però a un certo punto, dopo vari anni, diciamo dopo il matrimonio in realtà è nata questa cosa, siamo riusciti così in una maniera abbastanza naturale a incastrare le nostre passioni e in realtà è nato in una maniera totalmente spontanea, nel senso che una sera siamo andati in sala prova assieme, cosa che non avevamo mai fatto prima, e ci siamo messi a giocare ed è nato tutto questo. In realtà non doveva essere niente, doveva essere uno sfogo tra di noi, un gioco, e poi in realtà abbiamo fatto sentire queste bozze grezzissime, non si capiva niente a Marco, e lui ci ha capito, ha detto dai, venite in studio a registrare, e ha visto questa scintilla, questa acidità che ci rappresenta, e niente, da lì è partito tutto in una maniera totalmente inaspettata. Beh, molto bella come, anche come storia, insomma, no? Del come è nato, in maniera appunto inaspettata. Tra pochissimo sarete sul palco del Covo Club, quindi appunto qua a Bologna, e vi chiederei per tanto vi ringrazio per questa intervista, e poi vi chiederei anche per salutarci, se avete voglia, in vista di questo live, di mandare un messaggio alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, e anche se avete voglia di scegliere una canzone per chiudere l'intervista. Allora, grazie anzitutto a voi che ci avete ospitati. Che dire, siamo abbastanza poco bravi con le parole, se non quando scriviamo i testi o facciamo i live, però noi siamo molto contenti innanzitutto di tornare al Covo, perché è un posto dove siamo già stati e ci siamo trovati molto molto bene. E ascoltatrici e ascoltatori, veniteci a sentire, così appunto facciamo questa cosa tutti insieme. Di cercare toni. Il concerto dell'anno scorso è stato veramente emozionante, bello al Covo, quindi siamo contentissimi di tornare e speriamo di trovare lo stesso calore ancora di più. Perfetto, sì, in effetti il Covo è uno dei locali, anch'io lo amo tantissimo, è un locale bellissimo dove si crea anche sempre molto scambio tra palco e pubblico, quindi sarò sotto palco ad ascoltarvi. Siamo sul palco. Vi ringrazio molto e vi chiedo allora che canzone volete farci ascoltare. Bubblegum. Perfetto, allora ascoltiamo questa canzone e vi salutiamo e ci vediamo al Covo Club. Ciao. Grazie mille.